Capitolo 12. Posso avere un po' di terra? Una volta uscita dal giardino segreto, Mary si mise a correre così forte che quando arrivò nella sua stanza era senza fiato. I capelli le ricadevano in ciocche scompigliate sulla fronte e le guance erano di un rosa acceso molto forte. Il suo pranzo l'aspettava sulla tavola apparecchiata e Marta stava in piedi accanto al tavolo. Sei un po' in ritardo, le disse. Come mai? Ho incontrato Deacon! Ho incontrato Deacon! Rispose Mary, sventolando una mano davanti al viso, quasi l'aiutasse a riprendere fiato. Oh, è venuto! Sapevo che potevamo contare su di lui, ma non speravo che facesse così presto. Che te ne pare? Oh, io lo trovo bellissimo! Marta la guardò con aria molto sorpresa, anche se contenta. Veramente, proprio bello. È un bravissimo e buonissimo ragazzo, questo sì, ma bello. Nessuno a casa lo considera bello, con quegli occhi tondi, quel naso in su e quella bocca che sembra un forno. Mi piacciono i suoi occhi, mi piace il suo naso, mi piace la sua bocca, insiste Mary, sempre più decisa. Vorrei averli io. Marta non poté trattenersi, scoppiò in una risata fragorosa. Ti immagini come starebbero bene in quel tuo viso così magro e minuto? Esclamò. Però sono molto contenta che ti sia piaciuto. E cosa mi dici degli attrezzi da giardino? Come fai a sapere che li ha portati? Beh, non gli avevamo scritto per questo? Ci si può fidare di lui? A questo punto Mary cominciò a temere che Marta facesse domande che potevano portarla a parlare del giardino segreto. Ma per fortuna l'interesse si era polarizzato sugli attrezzi e sui semi, e così il pericolo sembrava passato, però si ripresentò ancora più forte quando Marta chiese: Avete deciso dove piantarli? Hai già scelto il pezzo di giardino per te? No, no, non ho chiesto niente a nessuno ancora. Se vuoi un consiglio, non chiedere a Mr. Roach, il capogiardiniere, si dà troppe arie, è troppo importante per seccarlo con queste cose. Oh, io non so neanche che faccia abbia, si affrettò a dire Mary. Conosco solo Ben e qualcuno dei suoi aiutanti. Ecco, se fossi in te io lo chiederei proprio a Ben, suggerì Marta. Sembra una persona bisbetica e burbera, ma invece non è per niente cattivo. Mr. Craven gli lascia fare tutto quello che vuole perché lui era già qui quando arrivò Mrs. Craven, sua moglie. E la signora si divertiva molto a parlare con Ben perché la faceva ridere. Forse Ben ti può trovare un angolino un po' nascosto, lontano dai viali principali. Se fosse un angolino nascosto, lontano dai viali principali, un angolino che non interessa a nessuno, dove nessuno va, tu pensi che me lo lascerebbero lavorare? Me lo lascerebbero coltivare a modo mio? Chiese Mary, con tutta la sua ansia nella voce. Oh, non vedo perché no, rispose Marta. Non daresti fastidio a nessuno? Mary mangiò il suo pranzo più in fretta che poté. Si alzò da tavola e si avviò di corsa verso la sua camera per riprendere la giacca e il berretto che si era tolta entrando. Voleva tornar fuori il più presto possibile, ma Marta la fermò sulla soglia. Devo dirti una cosa importante, le annunciò molto seria. Non te l'ho detta subito perché volevo lasciarti mangiare in pace. Mr. Craven è tornato stamattina e credo che ti voglia vedere. Mary sbiancò in volto. Perché? Mio Dio, perché? Non mi ha voluta vedere quando sono arrivata? Ho sentito Pitcher che lo diceva a Mrs. Medlock. Perché mi vuole vedere proprio adesso, proprio oggi? Ma, disse Marta, Mrs. Medlock mi ha detto che deve entrarci il fatto che la mia mamma ha incontrato Mr. Craven a Thwaite, alla stazione, proprio mentre lui era appena arrivato. La mamma non gli aveva mai parlato, però la moglie di Mr. Craven era sempre stata gentile con lei e l'aveva anche visitata 2 o 3 volte nella nostra casetta. Mr. Craven non si ricordava più della mia mamma, ma lei sì, di lui. Così lo ha fermato e gli ha parlato di te. Non so cosa gli abbia detto, ma il risultato è che lui ha detto a Mrs. Medlock che vuole vederti prima di ripartire domani. Se ne va domani? Ah, oh, che Dio sia ringraziato! Esclamò Mary. E starà via un bel po', tornerà solo alla fine dell'autunno o addirittura in inverno, fa sempre così. La primavera e l'estate, e a volte anche l'autunno, non li trascorre mai qui. Viaggia per il mondo. Che gioia, sono proprio felice al pensiero che se ne vada via presto e ci resti tanto. Mary pensava al giardino. Aveva davanti a sé il tempo per farlo rivivere, anche se al suo ritorno per un caso disgraziato Mr. Craven glielo avesse tolto, almeno lei avrebbe avuto la soddisfazione di vederlo fiorito durante la primavera, l'estate e forse anche l'autunno. Quando pensi che vorrà... Non terminò la frase, perché la porta si aprì e Mrs. Medlock apparve sulla soglia. Era tutta in gingheri. Aveva perfino una spilla con una fotografia a colori del suo defunto marito, ma si vedeva che era nervosa e agitata. Come sei spettinata, le disse. Vai a metterti in ordine. E tu, Martha, aiutala a mettersi il vestito più bello. Mr. Craven la sta aspettando nel suo studio. Il cuore di Mary cominciò a battere all'impazzata. Tutto il rosa che c'era sulle guance svanì per incanto, e così pure l'espressione allegra. Tornò a essere la bambina scontrosa, scostante, silenziosa che era stata sempre un tempo. Si avviò verso la camera da letto senza dire neppure una parola. Marta la seguì e l'aiutò a vestirsi, a pettinarsi, sempre in silenzio, e sempre in silenzio si avviò per i lunghi corridoi insieme a Mrs. Medlock. Non poteva rifiutarsi di andare a vedere Mr. Craven, ma sapeva che né lei sarebbe piaciuta a lui, né lui a lei. Si inoltrarono per corridoi che non aveva mai visto, in una parte della casa completamente sconosciuta. Poi Mrs. Medlock si fermò davanti a una porta e bussò leggermente. Avanti, si sentì dire dall'interno. Le due entrarono nello studio. C'era il caminetto acceso e davanti al fuoco, voltando le spalle alla porta, c'era un uomo seduto in una poltrona. Ecco la signorina Mary, annunciò Mrs. Medlock. Lei può andare, Medlock, e lasciarla qui. Suonerò quando vorrò che lei venga a riprenderla, disse l'uomo senza voltarsi. Mrs. Medlock uscì e richiuse la porta. Mary si sentì proprio piccola piccola. Non vedeva ancora il viso del gobbo, così chiamava fra sé Mr. Craven. Non sapeva cosa doveva fare o dire. Strinse fra di loro le sue mani sottili, quasi a cercare qualcosa a cui aggrapparsi. Teneva gli occhi fissi sulla figura dello zio, ma non vedeva nessuna gobba tipo dromedario, come lei si era immaginata dovesse avere sulla schiena. Le spalle erano solo piuttosto alte, quasi vicino alle orecchie e un po' curve. Aveva i capelli neri, striati da alcuni fili d'argento. Dopo qualche attimo lui volse il viso verso di lei e le disse: Vieni più vicino. Mary si fece coraggio e andò a mettersi ben di fronte a lui, le spalle al fuoco del caminetto. Poteva vederlo molto bene da lì. La fiamma gli illuminava il viso, non era brutto. Aveva dei lineamenti regolari, degli occhi grandi e un'espressione gentile. Ma c'era un'aria così triste su tutta la sua persona che l'aspetto generale non era per niente incoraggiante. Sembrava che gli costasse fatica posare gli occhi su Mary e che la presenza della bambina lo imbarazzasse, quasi che anche lui non sapesse cosa fare e cosa dire. Stai bene? Le chiese infine. Sì. Ti trattano tutti bene? Sì. Sei molto magra. Adesso ho cominciato a ingrassare. Com'era triste il viso di quell'uomo, pensò Mary. Sembrava quasi che i suoi occhi non la vedessero e cercassero invece un'altra presenza senza riuscire a fissarsi nel visino che aveva davanti. Mi ero completamente dimenticato di te, disse poi. E come avrei potuto ricordarmi? Volevo mandarti una bambinaia, un'istitutrice, qualcosa di simile, poi mi è passato completamente di testa. Per favore, cominciò Mary, per favore, ma un groppo alla gola le impedì di continuare. Dimmi, non aver paura. Cosa volevi dirmi? Io sono troppo grande per avere una bambinaia, riuscì a dire Mary, e per favore, non datemi ancora un'istitutrice. L'uomo appoggiò una mano sulla fronte e guardò Mary come i marinai guardano lontano, riparandosi gli occhi dal sole. Dici la stessa cosa che mi ha detto Susan Sowerby, disse come parlando a se stesso. Mary raccolse un po' di coraggio. È la mamma di Martha? Sì, mi pare di sì. Oh, lei se ne intende di bambini, affermò Mary. Ha avuto 12 figli, se non se ne intende lei. Lui si mosse sulla poltrona e parve risvegliarsi dalle sue fantasticherie, fissando Mary negli occhi. Bene, dimmi i tuoi programmi allora. Voglio andare fuori e giocare all'aperto il più possibile, rispose Mary, sperando che la voce non le tremasse. Non mi piaceva farlo quando ero in India, ma qui l'aria fresca mi fa venire appetito e è per quello che sto ingrassando. Lui la fissava adesso e faceva attenzione a tutte le sue parole. Anche Susan Sowerby ha detto che questo ti avrebbe fatto bene, forse ha ragione. Devi diventare più forte, più robusta prima di cominciare a studiare, prima di avere un'istitutrice. Quando il vento viene dalla brughiera e io corro contro di lui, mi sento forte adesso. Prima mi faceva quasi cadere. E dove vai a giocare? Oh, un po' dappertutto, balbettò Mary. La mamma di Marta mi ha regalato una corda da saltare. Io corro, salto. Mi fermo a guardare quelle piccole cose verdi che spuntano dalla terra, ma non faccio nessun danno. Ma perché tremi? Di cosa hai paura? Disse Mr. Craven con una voce leggermente inquieta. È chiaro che non fai danni. Cosa potrebbe fare di danni una bimbetta come te? Fai quello che vuoi nei giardini, vai dove vuoi. Mary si mise una mano sulla gola, quasi a nascondere il palpito violento del cuore. Era così eccitata che quasi, senza accorgersene, fece un passo in direzione dello zio. Posso davvero fare quello che voglio, andare dove voglio? Chiese tremando per l'emozione. Quel visino ansioso e quella voce insicura parvero turbare profondamente l'uomo. Ma non tremare così, non avere paura, la incoraggiò. Certo che puoi fare quello che vuoi in giardino. Io sono il tuo tutore. Purtroppo non sono bravo a fare il tutore. Non posso darti né tempo né attenzione. Sono troppo malato, infelice e turbato da tanti pensieri, ma voglio che tu ti trovi bene qui, che tu sia contenta. Io non me ne intendo di bambini. Non so di cosa abbiano bisogno. Ho detto a Mrs. Medlock di pensarci lei, di non farti mancare niente. Ma tu chiedi se hai bisogno di qualcosa. Oggi ho voluto vederti perché Susan Sowerby mi ha detto che sarebbe stato bene che ti vedessi. Sua figlia le ha parlato molto di te. Come abbiamo detto prima, lei pensa che ti faccia bene correre e giocare all'aria aperta. Oh, deve proprio intendersene di bambini, ripeté Mary. Penso proprio di sì. Stamattina, quando mi ha fermato, mi ha detto che aveva preso il coraggio a quattro mani perché si ricordava di come mia moglie era stata gentile sempre con lei. Tacque un attimo. Sembrava che il pensiero della moglie lo addolorasse molto e gli rendesse penoso parlare. Ha detto che dovevo vedere la bambina venuta dall'India. È una donna che sa quello che dice, una brava donna. Bene, tu gioca pure dove vuoi, nei giardini, nel parco, negli orti. Vai dove ti pare, spazio ce n'è, cerca di divertirti. Poi, come se improvvisamente gli fosse venuta un'idea importante, vuoi che ti faccia comprare dei giocattoli, dei libri, delle bambole? Veramente, io, pigolò Mary, io potrei avere un po' di terra? Nell'ansia della sua richiesta non aveva pensato che quell'espressione un po' di terra poteva sembrare strana e che avrebbe dovuto usare altre parole per fare la sua richiesta. Infatti lui la guardò sgranando gli occhi. Terra? Disse. Spiegati meglio. Sì, terra, perché vorrei piantarci dei semi. Mi piace l'idea di far nascere delle cose, di vedere i germogli spuntare, crescere, diventare piante. E lui la fissò intensamente. Poi si passò rapido una mano sugli occhi. Ti piace così tanto occuparti delle piante? Chiese parlando lentamente. Ho cominciato da quando sono qui, spiegò Mary. In India ero sempre stanca, malata e faceva così caldo. A volte sì, mi divertivo a fare dei giardinetti per giocare, ma facevo delle aiuole di sabbia e poi ci mettevo dei fiori che prendevo dalle piante già fiorite. Ma qui è tutto diverso. Mr. Craven si alzò dalla poltrona e cominciò a camminare su e giù per lo studio. Un po' di terra, ripeteva fra sé. Mary ebbe l'impressione che quelle parole lo portassero lontano, indietro nel tempo. Quando lui si fermò e le rivolse la parola, Mary notò che i suoi occhi ne erano assai diversi da prima. C'era in loro una tenerezza ora che li rendeva dolci e affettuosi. Puoi avere tutta la terra che vuoi, le disse. Mi ricordi qualcuno che amava le piante come te, amava mettere i semi nella terra e vedere i fiori sbocciare. Vai in giro e guarda, quando trovi il pezzo di terra che ti piace, prendilo e facci sbocciare la vita. Posso prenderlo da qualunque parte? Se nessuno lo cura? Sì, certo, sì, dovunque. Non si poteva dire che sorridesse, ma il suo viso sembrava più sereno, meno triste. Mary non seppe cosa dire. La sua gioia era tanta che la voce non uscì dalla gola. Bene, disse allora lui, penso che tu debba andare adesso. Mi sento molto stanco. Suonò il campanello per chiamare Mrs. Medlock. Ciao, ci rivedremo in autunno. Mrs. Medlock arrivò così in fretta che Mary pensò avesse atteso nel corridoio. Medlock, le disse Mr. Craven, adesso che ho visto la bambina capisco che Susan Sowerby aveva ragione. Deve rinforzarsi e irrobustirsi prima di pensare a studiare. Pensi a darle da mangiare cose sostanziose e semplici. Non le stia troppo dietro, la lasci andare il più possibile fuori a giocare. Mrs. Sowerby verrà qui di tanto in tanto e la bambina potrà andare qualche volta a casa con Martha. Mrs. Medlock sembrava soddisfatta, le faceva piacere non dover stare troppo dietro a quella smorfiosetta. Aveva altre cose da fare, poi quella Mary era un po' disobbediente e poi era contenta che la sua amica Susan fosse stata apprezzata. Ora andate, Medlock, e mandatemi Pitcher. Quando Mrs. Medlock la lasciò all'inizio del corridoio dove c'era la sua stanza, Mary volò fino a raggiungere la porta. Marta era lì ad aspettarla. Aveva già sparecchiato, ma era tornata su perché era ansiosa di avere notizie. Posso avere il mio giardino? Gridò Mary. Posso sceglierlo dove voglio? E non si parla di un'istitutrice per ora. La tua mamma verrà a vedermi di tanto in tanto e qualche volta potrò venire a casa tua. Lui ha detto che una ragazzina come me non può fare nessun danno e che posso andare dove voglio, fare quello che voglio, dove voglio. Oh, mi sembra che sia stato molto bravo, no? Chiese Marta. Sai, Marta, sentenziò gravissima Mary, è un uomo proprio bello e gentile. Peccato quell'espressione così triste e tutte quelle rughe sulla fronte. Finì di infilarsi in fretta la giacca e il berretto e scappò via. Aveva fatto tardi, chissà se Deacon era ancora ad aspettarlo, aveva dovuto andarsene, pensando a quelle 5 miglia che doveva fare a piedi. Scivolò sotto l'edera e aprì la porta. Girò lo sguardo attorno, non c'era nessuno. Gli attrezzi da giardino erano tutti insieme, riuniti sotto un albero. Mary cercò ancora fra i cespugli, nei berceau, di Deacon neanche l'ombra. Il petirosso volò dal muro sul ramo di un rosaio e si mise a guardarla muovendo la testa di qua e di là. Oh, se n'è andato, sospirò Mary. Ma spero che non sia stato solo un sogno il mio, gli arnesi sono qua. Mentre pensava così, qualcosa di bianco su un cespuglio di rose attrasse la sua attenzione. Era un foglietto di carta, per essere esatti un pezzo della lettera che Mary e Martha avevano scritto a Deacon, saldato al rosaio con una grossa spina. Mary lo prese in mano. Non poteva che essere un messaggio di Deacon, infatti c'era sopra un disegno accompagnato da due parole scritte in stampatello in modo assai incerto. C'era disegnato un nido con un uccellino. E sotto c'era scritto: Verrò ancora. Capitolo 13. Colin. Mary portò a casa il biglietto quando ci tornò per la cena e lo mostrò a Martha, che ne fu tutta orgogliosa. Oh, come bravo Deacon a disegnare e a scrivere! Disse, non accorgendosi degli errori. Vedi, questa è una allodola dentro il suo nido, sembra proprio vera, no? Allora Mary capì tutto il significato del messaggio. Deacon voleva dirle di stare tranquilla, che non avrebbe parlato, che poteva star sicura, come le mamme allodole che gli lasciano vedere dove avevano il loro nido. Le piaceva molto avere un segreto con quel ragazzo così buono e carino. Speriamo che venga domani, pensò prima di addormentarsi. Ma purtroppo, durante la notte, fu svegliata dal rumore che grosse gocce di pioggia facevano cadendo sul vetro della finestra. Non si può mai essere sicuri del tempo nello Yorkshire. specialmente in primavera. Fino al tramonto era stato così bello e adesso invece pioveva a catinelle. Il vento soffiava con violenza e ululava, passando per le gole dei camini della vecchia casa. Mary si sedette sul letto. Non le piaceva mai quando il tempo era così, ma ora poi si aggiungeva la preoccupazione per non sapere se sarebbe potuto uscire l'indomani. La pioggia è più dispettosa di quanto nessuno lo sia stato mai, pensò con rabbia. È venuta solo perché io non la volevo. Si ributtò sul cuscino e vi affondò il viso. Non piangeva, ma non ne poteva più dalla rabbia e dall'irritazione che le dava quel ticchettare della pioggia e quel ruggire del vento. Tentò di riaddormentarsi, ma fu inutile, non ci riuscì. Come si fa a dormire con questo rumore? Si chiese. Questa pioggia che batte sui vetri e questo vento. Sembra il lamento di qualcuno che si è perso nella brughiera e vada piangendo. Per circa un'ora continuò a voltarsi e a rivoltarsi nel letto, ma a un tratto qualcosa la fece sobbalzare e stare zitta in ascolto. No, no, non è la pioggia. Né il vento, questo, disse decisa, è quel solito pianto, quello che ho sentito già altre volte. La porta della sua camera era stata socchiusa dal vento e il suono veniva chiaramente dal fondo del corridoio. Ascoltò ancora per qualche minuto e ogni secondo che passava la rendeva sempre più sicura. Sentì che doveva andare a fondo a quella cosa ancor più strana e misteriosa del giardino segreto, della chiave sottoterra. Forse il fatto che era così irritata e rabbiosa per non poter dormire le dette ancora più coraggio del solito e la spinse a mettere giù i piedi dal letto, a infilare le pantofole e la sua lunga e larga vestaglia. Questa volta devo proprio scoprire cos'è, disse a mezza voce. Tutti sono a letto e me ne infischio di Mrs. Medlock e dei suoi divieti, me ne infischio. Accanto al suo letto, sul comodino, c'era un candeliere con una candela e una scatoletta di fiammiferi. L'accese e uscì nel corridoio. Era tutto buio, ma Mary non aveva paura. La sua attenzione era tutta presa dal ricordare in quale corridoio aveva visto Mrs. Medlock entrare in quella porta nascosta dalla tappezzeria. Era qui che doveva voltare? Era questo il corridoio da prendere? La luce fioca della candela allungava sulla parete e sul soffitto le ombre dei mobili e dei quadri, in un susseguirsi di figure strane e paurose. Ma Mary proseguiva coraggiosamente, guidata da quel suono che diveniva più forte e chiaro man mano che lei avanzava. Era un pianto triste, sconsolato. Ogni tanto si interrompeva per riprendere dopo un po' desolato, tristissimo. Mary si fermò a pensare. Era questo il corridoio dove doveva girare a sinistra? Sì. Riconobbe il passaggio con i gradini, poi il corridoio a destra, con la tappezzeria, la porta da dove era uscita Mrs. Medlock quella mattina che lei si era persa. Appoggiò la mano sulla maniglia ed entrò in un piccolo andito. Lì il pianto si sentiva proprio distintamente. Era al di là della parete di sinistra e a pochi passi da Mary c'era una porta. Da sotto filtrava un raggio di luce. Chi piangeva era là, dentro la stanza nella quale immetteva quella porta, e non era una persona anziana, anzi, doveva essere molto giovane. Mary avanzò decisa verso la porta e l'aprì. Si trovò in una grandissima camera da letto con dei bellissimi mobili antichi. Nel caminetto un ciocco si stava consumando quietamente e una lampada da notte era accesa sul comodino accanto al letto. Un grande letto intagliato, sormontato da un baldacchino di broccato azzurro. Sperso fra le lenzuola, i cuscini, le coperte di quel letto, c'era un ragazzino che piangeva disperatamente. Mary non credeva ai suoi occhi. Forse mi sono riaddormentata e sto sognando, pensò. Il ragazzo aveva un viso magro, dai lineamenti delicati e dal colore dell'avorio. Gli occhi erano enormi e sembravano occupare tutto il volto. I capelli erano tanti, folti e ricadevano in grosse ciocche sulla fronte e ai lati del viso, così che facevano sembrare quella faccina pallida e minuta ancora più piccola. L'aspetto era quello di un ragazzo molto malato, ma il pianto era più di noia e di stanchezza che di dolore. Mary Rimase accanto alla porta, sua candela accesa, il cuore che le batteva forte, trattenendo il respiro. Poi cominciò ad avanzare verso il letto in punta di piedi. Quando fu abbastanza vicina, la luce della candela attrasse lo sguardo del ragazzo, che girò la testa sul cuscino e fissò la bambina con due enormi occhi sorpresi. «Chi sei?» le chiese un po' spaventato. «Un fantasma?» «No, io non sono un fantasma!» bisbigliò Mary, un po' spaventata anche lei. «E tu?» «Neanch'io!» «Io sono Colin!» «E chi sarebbe Colin?» «Colin Craven, e tu chi sei?» «Io sono Mary Lennox. Mister Craven è mio zio.» «Mister Craven è mio padre!» «Tuo padre?» esclamò Mary, non credendo alle sue orecchie. «Nessuno mi ha detto che aveva un figlio. Perché?»